Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Questo è uno dei periodi più intensi per il fashion system. Ci sono state le sfilate di New York e Milano, seguite ora da quelle di Parigi. Noi oggi vogliamo raccontarvi un modo diverso di fare moda, quello della moda critica. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione parliamo poi di un prodotto intorno al quale si stanno sperimentando nuove formule di vendita, il vino, e per il focus sui trend di arte in vendita, quando l'arte fa tendenza. Prima, come sempre, ci sono le notizie della settimana. Corridoio o finestrino? Domanda irrilevante per alcuni, molto importante per altri. Nel dubbio, la compagnia British Airways ha deciso di far scattare un supplemento da 11 a 55 euro sul biglietto di chi sceglie il posto. 11 euro per l'Europa, 22 per i viaggi a lunga distanza, 55 per i posti più richiesti, ossia quelli vicini all'uscita d'emergenza. Nasce Tipico a tavola, il marchio dei ristoranti emiliano-romagnoli che propongono ricette tradizionali realizzate con prodotti locali. L'iniziativa è di Confesercenti Emilia-Romagna in partnership con il prestigioso Conservatorio Internazionale delle Cucine Mediterranee. Ottobre dedicato al commercio equo e solidale. Dal 10 al 25 CTM Altro Mercato lancia la campagna Equo per Tutti. E dal 17 al 25 ottobre torna Io faccio la spesa giusta del consorzio Fair Trade. Le prossime collezioni per l'inverno e per la primavera 2010 di H&M, colosso svedese dei piccoli prezzi, saranno firmate da Sonia Rykiel. La stilista francese, soprannominata Regina della Maglia, è considerata un'icona della moda francese. La collezione sarà lanciata il 5 dicembre in tutto il mondo in 1500 store H&M. Nella spesa alimentare degli italiani, il costo delle confezioni è la componente più rilevante e supera quello del prodotto agricolo contenuto. Lo rivela un'analisi della Coldiretti. L'Italia è il regno dei telefonini, con 1,5 cellulari in media a persona, ma una telefonata in abbonamento costa più che in quasi tutti gli altri paesi europei. Quasi il doppio per chi chiama molto. A fare il punto sui prezzi è un confronto internazionale realizzato dall'autorità per le TLC della Finlandia. La borsa della spesa. Si è chiuso a Milano uno degli appuntamenti clou della stagione per quanto riguarda la moda, Milano Moda Donna. In 97 sfilate per 89 marchi si sono viste tutte le tendenze per la primavera estate 2010. Grande ritorno del denim, trasparenze, lingerie a vista, tubini, gambe in evidenza. Le abbiamo viste, sentite e lette ovunque in questi giorni. In concomitanza si è svolta anche Dressed Up, prima sfilata di moda critica, in passerella 30 donne comuni per 12 stilisti emergenti che raccontano un modo diverso di fare moda. Nei confronti della settimana ufficiale, per così dire, lo spirito era non antagonista ma critico, ci dice Guia Manzoni, responsabile comunicazione del laboratorio di autoproduzione Isola della Moda, organizzatore dell'evento. L'idea di, diciamo così, datare Dressed Up a Critical Fashion Show proprio durante la settimana della moda è stata non tanto antagonista quanto, diciamo così, la voglia di proporre un'alternativa a quello che è il fashion system istituzionale. Solitamente conosciamo i grandi marchi della moda di lusso piuttosto che le grandi catene di distribuzione. Effettivamente quello che facciamo noi e che fanno gli stilisti che con noi ormai lavorano da tempo è proprio proporre qualcosa di diverso a quello che di solito viene presentato. Quindi avevamo voglia di dimostrare, di far vedere che in un contesto come quello della settimana della moda milanese, che tutti conoscono ma che nessuno di fatto, se non gli esperti e settori, riescono a toccare con mano, volevamo appunto dare una dimostrazione del fatto che in realtà la moda non va sempre imposta dall'alto, ma che è possibile anche appunto vedere. Infatti la sfilata per esempio è stata aperta al pubblico. Ma in che cosa è critica la moda critica? All'inizio si pensava che non potesse esistere un consumo critico nel campo della moda. Invece ci siamo proprio accorti che lavorando con i laboratori di sartoria, i giovani stilisti indipendenti, progetti di designer che proponevano magari materiali di riciclo che usavano, che ne so, abbiamo esposto per esempio durante Dressed Up delle borse fatte con camere d'aria dei trattori, dei camion, insomma delle idee molto particolari che si distinguono da quello che è il fashion system istituzionale. Questo è il voler essere critico, l'idea di valorizzare un capo fatto a mano, l'idea di valorizzare il rapporto umano, come era anni fa, tempo addietro, il rapporto umano che si viene a creare fra chi cuce un abito e chi poi lo va a indossare. Il fatto di poter scegliere un abito che non è solo lo provo, se mi va bene lo compro, se no no, se mi piace posso farmelo fare su misura. Tutti questi sono piccoli particolari, così come ad esempio mi viene in mente anche la scelta di utilizzare tessuti biologici, è una scelta comunque alternativa di sostenibilità ambientale, o l'idea di riutilizzare capi vintage, questo che si chiama vintage remake, cioè l'idea di utilizzare un vecchio capo ridandogli vita, non solo vendendolo come capo usato, ma modificandolo, dandogli proprio un nuovo valore. Ecco allora qualche nome di stilisti emergenti con l'invito ad andare ad esplorare il settore. Per farvi giusto qualche esempio posso citare il laboratorio Lafgon, che è un laboratorio che opera ormai un buon numero di anni nella provincia pavese, è un progetto familiare che utilizza tessuti italiani così come stranieri provenienti, che ne so, da cooperative nei paesi del sud del mondo, capi originali nella forma ma essenziali. Mi viene da citare per esempio la Bocca, che è un laboratorio creato da due ragazze a Genova e che ha presentato durante la filata un abito bellissimo, una sorta di abito imperiale, tutto realizzato cucendo insieme delle cravatte usate. Piuttosto che qui in Torino, che presenta una moda un po' più colorata, divertente, se vogliamo anche sfacciata per certi versi. Cambiamo argomento con il direttore di Markup Luigi Rubinelli, parliamo di enoteche di ultima generazione con un esempio di eccellenza che arriva da New York. Nel commercio c'è un nuovo imperativo: fare negozi con experience, con l'anima, che sappiano durare nel tempo e soprattutto coinvolgere davvero il consumatore. I negozi sono tanti e molti imprenditori non raggiungono questo obiettivo. Perché? Perché non ripercorrono l'intera filiera e nel ricostruirla non danno il giusto peso a ogni fase. Un imprenditore di New York sembra sia riuscito invece a centrare l'obiettivo alla prima uscita in un mercato per giunta davvero complicato e difficoltoso come nel caso del vino. Stiamo parlando allora di City Winery nel quartiere di Soho, dove è attivo un negozio di vino davvero particolare. Addirittura dispone di una cantina per pigiare le uve che arrivano subito dopo la vendemmia. Il pubblico che si iscrive può selezionare una partita e a pagamento può far invecchiare in apposite damigiane e barrique il vino che ha visto pigiare, a patto che acquisti della partita almeno 250 bottiglie. Non sono poi tante. Il negozio dispone di una sala di degustazione e di un ampio ristorante dove si possono abbinare vini e piatti. Di più, i due imprenditori, Robert Herzog e Michael Dorf, amanti del jazz, hanno inaugurato un calendario di eventi musicali degno di un palasport, chiudendo così la filiera e soprattutto l'experience. Essere e avere. Partite di scacchi giganti e battaglie con pistole ad acqua. Non stiamo parlando degli appuntamenti di una sagra estiva, ma degli eventi in programma al Palais di Tokyo, il laboratorio sperimentale creato all'interno del Museo Nazionale di Arte Moderna a Parigi. Una struttura con libreria, boutique e ristorante aperta tutti i giorni fino a mezzanotte. Una struttura simbolo della rivoluzione che sta attraversando il mondo dell'arte. Che influenza anche il mondo dei consumi. Questo è il tema del focus sui trend di questa settimana. Ne parliamo come sempre con la nostra esperta Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF. Bentornata Patrizia. Grazie, buongiorno a tutti. Mai come oggi l'arte è diventata accessibile, la definizione abbraccia molte più categorie di un tempo, gli appassionati si moltiplicano, l'arte insomma è diventata glamour. Patrizia. che arte, moda, architettura, design, ma anche merci e consumi si stiano avvicinando sempre di più è un dato di fatto. Lo si vede guardandosi intorno. Le contaminazioni in termini di pensiero e creatività tra questi mondi sono all'ordine del giorno e sotto gli occhi di tutti. Ultimissimo connubio moda-arte, per esempio Lorenzo Riva, che nella recente sfilata milanese ha usato opere di Mimmo Rotella concesse dalla Fondazione come stampe per i tessuti della collezione, tra l'altro dedicata espressamente al celebre maestro di décollage. Come dicevi tu, i luoghi istituzionali dell'arte diventano luoghi da vivere al di là delle mostre e non solo. I musei diventano dei brand, i bookshop hanno vita autonoma, nascono anche i grandi magazzini dell'arte, abbiamo un esempio a Vienna, ma anche gli alberghi come Luise Kunst Hotel, ma non è l'unico, di Berlino, che arredano le stanze con opere d'arte. Insomma, l'arte sta facendo incursioni oltre che nei mondi più contigui, come la moda appunto, come il design e l'architettura, anche nel retail, nel turismo, nel mondo delle merci, abbiamo detto, fino alla strada. L'arte invade anche le città. In questo complesso rimescolamento si staglia una sorta di doppio movimento dall'alto verso il basso, diciamo, e viceversa. Quindi da un lato il design e le arti applicate sono entrate a pieno titolo a far parte delle collezioni dei musei, dall'altro gli oggetti d'uso quotidiano semplici vengono progettati da celebri designer, architetti, artisti che in questo modo li estetizzano, li riqualificano e quindi non li fanno più rimanere nella categoria di prodotti d'uso comune. E qui gli esempi anche conosciuti sono molti: il mouse di Philip Stark, le scarpe di plastica Melissa disegnate e dai designer Fratelli Campana e dalla star irachena dell'architettura Zaha Hadid, ma anche i gioielli disegnati da Fran Gehry per Tiffany o le famosissime borse Louis Vuitton decorate e monogrammate dall'artista giapponese Murakami. Quindi non solo nomi di spicco del design internazionale rielaborano packaging e prodotti se non commodity, ma in questo modo li fanno entrare in un circuito che poi può ritornare anche più in alto nel vero mondo dell'arte. È il caso del gruppo di creativi di Fabrica guidati da Sam Baron, che ha rivisitato la scatola di latta blu e bianca della crema Nivea, la mitica crema della beauty routine di tutti da almeno 100 anni, che ha ispirato 4 t-shirt vendute poi in edizione limitata nel bookshop della Biennale d'Arte di Venezia di quest'anno. Sullo stesso Palais di Tokyo che citavamo in apertura, proprio sul tetto dell'edificio, è stato recentemente appoggiato Art Home, un cubo in vetro che è sia un'installazione artistica sia un ristorante. Gli ospiti, un solo tavolo per 12 persone, possono gustare i piatti di un rinomato chef francese che cucina davanti a loro. Al Louvre, invece, notizia che ha suscitato anche molte polemiche proprio qualche giorno fa, aprirà a un McDonald's. Ma dopo i ristoranti, l'ultima moda è quella di trascorrere una notte al museo. Qui di notte è un po' spettrale, magari vorrei accendere qualche luce. Ma ricordati la cosa più importante: niente deve entrare o uscire. Uscire. Tutto in questo museo prende vita di notte. Ah! Un terrore da paura! Vi piacerebbe passare una notte al museo come quella di Ben Stiller nel film omonimo? Se non vi aspettate di essere rincorsi dallo scheletro di un dinosauro, ora lo potete fare in moltissimi musei. A partire proprio da quello di storia naturale di New York, dove era ambientata la pellicola. Sempre a Manhattan, al Guggenheim, in determinati periodi si può dormire in una speciale installazione, godendosi in pigiama anche una visita delle sale e usufruendo di bagno, doccia e mini bar. Musica e intrattenimento invece la formula acchiappa clienti notturni del MoMA, mentre Milano punta sui più piccoli. Al Museo della Scienza e della Tecnica, avventura notturna con pila e sacco a pelo. Patrizia, contro quelli che qualcuno ha definito i musei Luna Park si levano periodicamente le proteste del mondo tradizionale dell'arte. Di fatto però hanno tolto la polvere, per così dire, hanno, cosa molto più importante, hanno fatto aumentare i visitatori, è così? Diciamo che dai negozi, dai flagship store, ai ristoranti, ai locali a tema, insomma partendo dal mondo del retail, anche i musei come tutti i luoghi di consumo, per quanto consumo culturale, consumo di arte, stanno mutuando nuovi format, nuove idee innovative, diventano spazi sempre più ibridi, ma soprattutto si trasformano in luoghi di socializzazione, appunto togliendosi un po' di polvere. È interessante, come già si diceva nella scheda, gli esiti degli incroci tra arte e ristorazione. Abbiamo begli esempi di archistar come Frangheri, che diventano loro stessi dei brand e usano opere d'arte per arredare ristoranti. È il caso del Frank Restaurant, con sottotitolo Art Food Talk, quindi arte, cibo e conversazione, chiacchiere, quindi socializzazione, all'Art Gallery of Ontario a Toronto. Un concept di ristorazione molto originale, perché vede il luogo arredato con complementi di arredo a basso costo, ma con installazioni originali di Frank Stella, oltre a menù in linea con la filosofia slow food. Quindi arte più cibo, diciamola così, è una formula aggregativa dilagante proprio in questo mondo istituzionale, culturale dell'arte. Le cene al museo con chef star che si mettono ai fornelli nei ristoranti, appunto, dei musei, facendoli vivere quindi anche fuori orario, sono delle esperienze di grande successo che hanno visto Moreno Cedroni alla Triennale di Milano, Davide Scabina al Castello di Rivoli di Torino, ma abbiamo anche happy hour, delle cose diciamo più ancora più accessibili, nel giardino del Guggenheim di Venezia oppure al Roof Garden del Met di New York, e ancora per i più giovani DJ set appunto al PS1 di New York. Dicevi in apertura che l'arte è diventata glamour, cool, e è diventata anche una leva importante, quindi se ne sono accorti anche i brand, per incrementare il valore e l'attrattività di molti marchi, soprattutto giovani. Un esempio su tutti: Adidas Originals, per il 60° anniversario delle famose tre strisce, all'inizio di quest'anno ha dato spazio alla street art, proprio per celebrare l'originalità, che è il suo claim, tra l'altro appoggiandone esplicitamente il riconoscimento ufficiale come disciplina artistica. E con il progetto Metallic Doors, porte metalliche, ha fatto interpretare il mondo e i valori del marchio a uno storico team di artisti di strada, TDK, che hanno decorato 18 serrande di negozi, ecco il titolo Metallic Doors, ovviamente consenzienti, nella zona di Porta Ticinese a Milano, in questo modo creando sempre nella seconda vita dei luoghi una sorta di narrazione molto interessante del racconto di marca. Cosa c'è di nuovo a... Oggi arriva da Londra la segnalazione delle nostre Urban Watcher di Memi su arte, consumi e dintorni. Alessia Zampano, bentornata. Grazie, buongiorno a tutti. Sarà proprio il caso di dirlo, ma grazie alla crisi a Londra si stanno diffondendo gallerie d'arte temporanee che occupano a scadenza gli spazi di attività commerciali fallite. Negozi di moda, outlet, showroom di motorini, videostore, locali spesso anche su più piani e situati nei quartieri più eleganti della capitale, restano vuoti per mesi. E così a Simon Tarrant, un artista che nella sua lunga carriera non era mai riuscito a farsi rappresentare da una galleria, è venuta un'idea. Ha proposto ai proprietari di un ex pub fallito e sfitto da un anno di utilizzarlo come spazio espositivo per una mostra del suo collettivo, il Queen's Elm, a costo zero e facendosi carico solo delle utenze. La sua iniziativa ha dato in là una vera e propria economia di questi spazi, chiamiamoli interstiziali, che si accendono e si spengono a turno, promuovendo l'idea di un'arte nomadica, diffusa, che si manifesta appena ce n'è l'occasione. Le ricadute positive sono tante. I proprietari intanto abbattono i costi di gestione dei locali in disuso e tra il numeroso pubblico che affolla questi eventi trovano facilmente persone interessate ad affittare l'immobile. E gli artisti riescono ad autopromuoversi in spazi ampi, prestigiosi, per nulla defilati, pur essendo fuori dai circuiti ufficiali. Grazie Alessia. Patrizia, in conclusione, è una definizione di moda, si usa anche per il lusso, però di fatto tutto quello che abbiamo detto finora si riassume nel concetto di democratizzazione dell'arte, lo testimonia anche quest'ultima segnalazione da Londra, è così? Sei d'accordo? Sì, perché l'arte, questo è il punto secondo me importante, si fa presenza da strada, presenza quotidiana, e può diventare in questo senso integratore sociale, come nel caso di Johannesburg. Lì abbiamo dei quartieri degradati che diventano gallerie d'arte a cielo aperto e hanno un obiettivo politico tipo di dialogo di integrazione, oppure diventa riqualificatore visivo di non luoghi come i parcheggi al centro del progetto itinerante di Park Art, oppure i tombini art a Milano, questi tombini quadro di 16 giovani artisti su cui si cammina. Quindi gli spazi urbani sono questa infinita tela per gli artisti, e per i brand, per le aziende, l'arte diventa un linguaggio molto potente per narrare il loro mondo di marca. Essere avere @radio24.it. Aspettiamo le vostre idee, i vostri suggerimenti. Vi do appuntamento a domenica prossima dopo il GR delle 13, in replica il sabato alle 15. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.